Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Testa di sciacallo e corpo di umano. Andiamo in Egitto all'inizio. Ah sì, parliamo di dei e animali. Allora, e poi invece abbiamo come nostro ospite il professor Alberto Mantovani, che torna a trovarci perché questa volta ha scritto un decalogo, pensa, per aspiranti scienziati. E poi la nascita imperfetta delle cose. Andiamo a Napoli, dove parte Futuro Remoto. Si parte! Torino Spiritualità è un'associazione che organizza tante cose interessanti culturali a Torino. Quest'anno ha organizzato e sta andando in queste ore, in questi giorni, Distinti Animali, di apostrofo. Sì, all'interno delle loro programmazioni, diciamo, più classiche. Più classiche. E noi abbiamo adesso questa sera qua il direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco. Buonasera Greco. Buonasera. Che ha già tenuto un appuntamento, una conferenza insieme ad Alberto Pellissero, che è un indologo, quindi studioso di India. Il titolo era Animali o Dei? Punto interrogativo. Culti e simboli tra antico Egitto e India. E esatto. Quindi anche noi ci siamo incuriositi su questo tema, perché avete un po' dibattuto, avete un po' raccontato questa disciplina che è la zoolatria, che dobbiamo assolutamente raccontare anche agli ascoltatori. Si capisce un po' a naso. Possiamo anche subito correggere appunto questo concetto della zoolatria, che forse era il modo in cui, per quanto concerne l'Egitto, i greci e poi i romani videro il culto degli animali, non capendo però che non si trattava appunto di una idolatria rivolta agli animali, ma era invece un culto rivolto ad un dio immanente in cui l'animale stesso era veicolo della divinità. Cioè, quando lei dice, noi vediamo la classica struttura, scultura egizia, c'è cioè il corpo d'uomo e la testa da sciacallo, lì si può commettere questo errore che dice lei? Sì, non dobbiamo pensare che sia il culto di un animale in quanto tale, ma è il culto di un aspetto della divinità, aspetto che forse poi viene personificato da determinate caratteristiche degli animali. Per essere più chiaro, se noi adoriamo una divinità come la divinità egizia, che è una divinità immanente, il professor Asman l'ha definita un deus absconditus, un dio non visibile che però permea la natura. E per dare una suggestione, mi piace molto dire che gli dei nell'antico Egitto vivevano all'interno del cosmo, in cui era inserito anche l'elemento antropico, e dalla Grecia in poi si invece instaurò questa suddivisione, creando l'Olimpo, e gli dei andarono a vivere nell'Olimpo e non si elevano, si elevano esattamente. Esatto. Allora, in questa religione naturalistica e panteistica, Dio si manifesta con varie caratteristiche, alcune delle quali possono essere la forza, la furbizia, l'intelligenza, e questo può essere legato a degli animali che hanno queste caratteristiche, però sono una delle manifestazioni del Dio. Allora pensiamo al Dio per eccellenza, il Dio Sole. Il Dio Sole può essere rappresentato in forma umana con la testa d'ariete, ed è il Dio Sole alla sera, che è molto stanco. Al mattino però il Dio Sole è rappresentato o con il corpo umano, con la testa di scarabeo, oppure come solo lo scarabeo, perché gli egiziani avevano osservato che gli scarabei facevano delle palle di fango che spingevano avanti a loro, e quindi lo scarabeo è colui che spinge il disco solare attraverso l'orizzonte. Ma sempre del Dio Sole parliamo, di due caratteristiche del Dio Sole. Non c'è il mito dello scarabeo, ma c'è il culto del Dio Sole. Peraltro lo scarabeo in egiziano si legge come la parola Khepri, che significa divenire, essere, e quindi è il Dio Sole che risorge al mattino dopo aver avuto il suo periplo notturno durante la notte. Quindi le declinazioni sono potenzialmente infinite. Sì. Ci racconti qualche davvero altra infatti storia? Lì in Egitto, diciamo che su dei animali o con sembianze tali copriamo praticamente quasi tutto l'universo zoologico. Assolutamente tutto. Guardi, noi abbiamo una serie di mummie animali che vanno dai serpenti, passando per i babbuini, passando per i gatti, insetti, per i coccodrilli, e fra l'altro stiamo per lanciare un grosso progetto perché restaureremo le nostre mummie animali facendo un restauro dal vivo per le persone. Per dare un esempio, una scena che tutti conosciamo, la scena del capitolo 125 del Libro dei Morti, il giudizio di fronte ad Osiride quando avviene la psicostasia, la pesatura dell'anima, ebbene il defunto viene condotto di fronte ad Osiride da Anubi, che viene rappresentato con sembianze umane, con la testa di sciacallo, è colui che conduce il condottiero del regno dei morti. E allora guardiamo anche qui un'evidenza: come mai giunsero a questo? Beh, dove erano le necropoli? Le necropoli erano nel deserto occidentale, nella quale giravano gli sciacalli, e quindi lo sciacallo è colui che vive fra i morti ed è colui che accompagna quindi i morti di fronte al tribunale di Osiride. E chi registra il tribunale durante la pesatura del cuore, vi è un segretario verbalizzante, questo è il dio Tot che è rappresentato con la testa di Ibis o a volte viene rappresentato anche come un baviano. E parlando dei baviani, questi erano molto legati al culto del del dio Sole, perché sappiamo che erano coloro che sono attivi molto presto al mattino e quindi secondo il culto egiziano venivano legati all'adorazione del dio Sole. Quindi ci sono sempre queste caratteristiche proprie di determinati animali che li legano poi invece al culto di determinate divinità. Senta, ma viene da domandare, ma c'è almeno un animale che resta fuori oppure li prendono proprio tutti, perché so che ci sono i popotami, alcuni animali che non hanno doti, che non hanno incontrato. Dunque, gli ippopotami adesso quasi tutti gli animali che appartenevano, che erano visibili all'interno dell'Egitto, venivano assunti con determinate caratteristiche. Anche animali che adesso non vivono più nell'Egitto. Lei cita appunto l'ippopotamo, considerato un animale molto pericoloso. Al contempo, però, Taveret, date anche le forme dell'ippopotamo piuttosto grosso, era colei che proteggeva le partorienti e aveva un grosso significato simbolico. Ecco. E poi un altro animale che adesso non si vede più in Egitto, ma che era fondamentale e chi viene al Museo Egitto ne resta colpito. Ora abbiamo la collezione di stato più grande al mondo, ne abbiamo ben 21, era la dea Sekhmet, la dea leonessa, leontocefala, quindi con il corpo umano e con la testa di leone. Ecco, io vorrei approfittare solo un istante per dire che ci avete concesso delle immagini molto belle, appunto, sia della dea Sekhmet, anche delle mummie animali che ha citato prima, quindi sul nostro blog le troverete. Ovviamente invitiamo tutti ad andare al Museo Egizio, per chi non ci fosse ancora andato, è un'esperienza fantastica. Però per chi si fosse incuriosito da questo racconto può trovare qualche mille immagine. Storie. Ecco, sì. Scusi se l'ho interrotto. Visto che parlavamo della dea Sekhmet, fatemi raccontare questo piccolo mito che racconta della dea. È un'emanazione anche lei del dio Sole e viene venerata come sua figlia. La forza del Sole è una forza benefica che permette la vita per il genere umano. La dea Sekhmet viene mandata dal dio Sole per punire il genere umano. Inizialmente Re e Ra saluta in modo positivo l'azione della figlia e la proclama appunto la potente. In egiziano il nome Sekhmet significa appunto potente. Il problema è che a un certo punto la dea Sekhmet comincia a diventare ghiotta del sangue umano e rischia di sterminare l'umanità. Quindi diventa cattiva, diciamo, un'accezione più negativa, ecco. Ecco, assume un'accezione assolutamente negativa, però Ra riesce a placare Sekhmet con l'inganno facendola ubriacare con della birra colorata di rosso che la dea pensava fosse sangue, l'ha ingannata. Trucco bassissimo. Quindi la beve, si ubriaca, si inebria e si addormenta. Senta, questa Sekhmet però è sempre presente, perché molto spesso i fenomeni naturali possono essere, questi miti possono nascondere una eziologia di quello che avviene, perché Sekhmet la potente si può risvegliare sempre. Quando si risveglia? Si risveglia nel pieno dell'estate, prima dell'inondazione, può portare con sé pestilenze e catastrofi, e per quella deve essere adorata ed ammansita per tenerla buona. Che belle storie. Penso che potrebbe andare avanti 8 ore questa intervista. Sì. Grazie, buon lavoro, e noi ricordiamo agli ascoltatori, insomma, che si possono trovare gli approfondimenti sul nostro blog. Grazie Greco, arrivederci. L'intervista con Christian Greco finisce qui, ma sul blog è più lunga. E adesso quegli animaloni che sono le macchine, cosa stanno combinando? JP Morgan Asset Management vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Bene, Federico, riprendiamo con un ospite che è già stato nostro ospite, che conosciamo da tempo, è il professor Alberto Mantovani. Ben trovato, professore, buonasera. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Benvenuto. Lei è immunologo, direttore scientifico dell'ospedale Humanitas, è docente dell'Humanitas University, è uno dei ricercatori più citati nella letteratura scientifica e questa volta è nostro ospite perché appunto ha scritto un libro, ma un libro non relativo appunto alla sua professione, di cui ce ne sarebbe da scrivere tomi e tomi, dando dei consigli, dando un decalogo proprio per gli aspiranti scienziati. Si intitola Non avere paura di sognare, il titolo già mi pare molto bello, ed è edito dalla Nave di Teseo. Ecco, professore, come diciamo le è venuto in mente in questo momento della sua carriera brillante, lo diciamo noi giustamente, importante, di dare consigli invece a coloro che si stanno approcciando al mondo scientifico? Ma mi è venuto in mente e sono stato sollecitato, per la verità, dalla Nave di Teseo. Ho aderito all'idea con entusiasmo perché i giovani sono stati i miei maestri, i giovani e i giovani tecnici sono stati i miei maestri e mi è sembrato doveroso in qualche modo provare a trasmettere un distillato della mia esperienza di scienziato e un pochino anche sul lato umano, un distillato che forse è di interesse non solo ai giovani scienziati, ma ai giovani in generale. Che può rivolgersi anche a quelli che stanno all'ultimo anno del liceo, no? E devono fare questa grossa scelta. Ecco, ci sono tanti manuali oggi che dicono cosa bisogna fare nella vita per avere successo e sono tutti un po' un tono aggressivo. Lei invece ha un capitoletto che è intitolato Sii umile, quindi lei sta dando anche dei suggerimenti forse un po' diversi. Sì, io penso che bisogna coniugare la capacità di sognare, un sogno non astratto, un sogno che si confronta con la realtà, una capacità di sognare adeguata alle proprie capacità che vanno verificate, assieme all'umiltà. Quando dico capacità di sognare, io sono un alpinista, ma non sarò mai in grado di fare il K2, però mi pongo degli obiettivi che sono un po' sopra le mie capacità. In genere ci arrivo in cima. Ecco. E poi l'umiltà. Io penso che chi si occupa di scienza ha bisogno di essere umile. Umile se fa biomedicina nei confronti dei pazienti, i pazienti sono nostri maestri da molti punti di vista, umile nei confronti dei giovani, ce n'è bisogno, in particolare in un certo mondo accademico, perché di nuovo io ho imparato dai miei ragazzi e imparo dai miei ragazzi. In questo momento, per esempio, sto imparando da alcuni dei miei ragazzi che mi stanno veramente dando delle lezioni. Umiltà nei confronti dei tecnici. Questo è un paese con una straordinaria tradizione di botteghe, dalla bottega di Giotto a Guarnieri del Gesù a Stradivari. Ai nostri laboratori, i miei tecnici sono, io credo, fra i più bravi del mondo e da loro ho imparato. È il libro interessante perché lei ovviamente riporta la sua esperienza, quindi esperienze internazionali, ma anche esperienze di questo tipo. Quando lei, ad esempio, era studente o comunque dottorando e si stava approcciando ai grandi professori, e in quel caso lì lei racconta sia i casi ovviamente che ricorda con maggior emozione positiva, ma anche qualcuno che ricorda con qualche sassolino nella scarpa un pochino meno positivo. Ecco, qualcuno che umile con lei non è stato. È vero, è così. Io ero uno studente di medicina appassionato che lavorava fino a tarda sera e il sabato e la domenica in laboratorio. E ho avuto l'esperienza di un grande maestro che si chiamava Enrico Ciaranfi, un grande professore, grande anche fisicamente, che quando ci fu un incidente in laboratorio, senza rimproverare nessuno, trascorse la giornata pulendo con la ramazza e con gli stracci il laboratorio dal pasticcio che noi avevamo combinato. Ecco, quello fu un esempio straordinario di un grande cattedratico, così si chiamava, no? Che senza rimproverare pulisce per tutti. E poi ho avuto qualche esempio che è raccontato nel libro di di arroganza e di arroganza fuori luogo, tanto più nella misura in cui il giovane studente non poteva rispondere a tono. Allora, intanto davvero un buonissimo lavoro. Io ripeto il titolo del libro, Non avere paura di sognare, decalogo per aspiranti scienziati, edizione La Nave di Teseo. Grazie professore, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a lei. La prossima settimana Moebius è a Napoli per una grande kermesse di scienza futuro remoto organizzata da Città della Scienza. Si svolge in Piazza del Plebiscito, ci sono veramente tantissime cose. Io vi posso solo dire che si parlerà di come leggere i papiri antichi, protesi biomedicali, le ricerche di frontiera nei veicoli elettrici e anche la sicurezza nei veicoli. Insomma, sono veramente tante. Trovate tutto il programma sul nostro blog. Per parlare un po' più approfonditamente di una delle tante cose che ci sono lì, abbiamo intervistato Guido Tonelli, che è uno dei fisici, dei ricercatori di punta del CERN di Ginevra, dell'LHC, che a futuro remoto parlerà di la nascita imperfetta delle cose. Titolo strano, suggestivo, e quindi gli abbiamo detto: da dove viene? Come mai questo titolo? Il titolo è suggestivo di un risultato scientifico che è stato assodato, acquistato, ormai diciamo messo nel cassetto da 4-5 anni con la scoperta del bosone di Higgs, e allude alla comprensione di quel meccanismo che ha costituito un momento magico nella vita del nostro universo. Stiamo parlando di un centesimo di miliardesimo di secondo subito dopo il Big Bang, quindi andiamo indietro di 13,7 miliardi di anni. L'universo è appena stato prodotto da una fluttuazione quantistica del vuoto e lì succede qualcosa. La materia esisteva già, ma esisteva in una forma completamente esotica rispetto a quella a cui siamo abituati. Noi siamo abituati a essere noi stessi e avere intorno a noi cose fatte di atomi, di molecole. Questa forma specifica non è l'unica forma che la materia può avere, anzi nei primissimi istanti di vita la materia aveva una forma completamente diversa. Particelle elementari prive di massa riempivano l'intero spazio sviluppatosi da questa singolarità, si muovevano alla velocità della luce, quando di colpo succede qualcosa, e questo qualcosa è che il bosone di Higgs, appena la temperatura si raffredda, si congela, l'universo si è espanso quel tanto per raffreddarlo a sufficienza da consentire il congelamento di questo campo scalare, e da quel momento è cambiato tutto. Le particelle elementari hanno acquistato una massa specifica e si sono differenziate, quindi si è rotta quella perfetta simmetria, e da quella imperfezione, da quella rottura di quella perfetta simmetria è nato il mondo materiale così come lo conosciamo. Perché quando lei dice perfetta simmetria, noi dobbiamo non pensare come i due gemelli, dobbiamo pensare a qualcosa che è perfetto perché è totalmente disordinato, no? Omogeneamente disordinato, come un gas, no? È quella la supersimmetria. Se si rompe qualcosa, lei dice, è perché si creano dei nuclei, degli accumuli, c'è una trasformazione di questo genere. Sì, immaginiamo, l'esempio del gas è abbastanza corretto, immaginiamo una specie di gas perfetto in cui tutti i componenti sono identici e tutti sono privi di massa e tutti si muovono alla velocità della luce. Ovunque lo si guardi c'è la stessa densità ed è lo stesso oggetto. Le interazioni fondamentali sono tutte con la stessa intensità, quindi la perfezione al cubo. Si piazza in questo universo primordiale il campo scalare di Higgs e comincia a differenziare la forza debole che viene confinata su distanze subatomiche e la forza elettromagnetica portata dai fotoni che rimane a raggio d'azione infinito. I quark, alcuni diventano leggeri, possono formare coi gluoni il protone che è un oggetto stabile. L'elettrone acquista una piccola massa, quel tanto che basta da permettergli di orbitare intorno al primo protone. Nascono gli atomi, nascono le molecole, nascono le galassie e infine, in ultima istanza, nasce quel meccanismo meraviglioso che ha portato fino a noi. Ma questo interruttore che cambia completamente le cose nasce per via di un abbassamento di temperatura, cioè quel gas che abbiamo descritto ha una temperatura impressionante, se scende un po' cominciano a crearsi dei grumi come nella maionese. Sì, diciamo, ora che abbiamo scoperto il bosone di Higgs, ne abbiamo misurato la massa. La massa ha a che fare con la temperatura alla quale il campo scalare condensa. E la cosa meravigliosa è che se il bosone di Higgs avesse avuto una massa leggermente diversa da quella che abbiamo trovato, il meccanismo che stiamo descrivendo e che è in funzione tuttora, cioè è cominciato in quel periodo magico, ma tiene nel tempo. Se avesse avuto una massa diversa, non avrebbe avuto la stabilità. Questo universo, che è durato 13, miliardi di anni, sarebbe probabilmente immediatamente finito in una bolla di energia. Pensi la cosa incredibile, cioè che siamo qui a discutere di un meccanismo che è all'origine non solo della struttura materia-universo, ma di tutto quello che ci circonda. Quindi qualcuno potrebbe anche dire, magari ci sono state altre storie in cui non è andata così e quindi si è spento subito. Bellissima domanda. In effetti c'è una suggestione che ci è venuta ovviamente subito. Nel momento in cui abbiamo, in termine tecnico si dice, studiato la stabilità del vuoto elettrodebole, cioè questa impalcatura che regge questa particolare forma del nostro universo, è stabile da 13,7 miliardi di anni. Fra l'altro non è stabile per sempre. Un'altra delle cose che abbiamo trovato, può darsi che si laceri in qualche momento nel futuro, magari non domattino, l'anno prossimo, fra qualche miliardo d'anni, ma non è stabilissimo. In ogni caso viene immediato immaginare che queste condizioni che hanno reso stabile la nostra impalcatura in altri universi potevano essere diverse. Quindi la congettura dei multiversi, che è ancora una congettura, cioè scientificamente consistente con tutte le osservazioni, ma ancora non provata scientificamente, acquista una sua suggestione. Senta, un'ultima domanda. 13 miliardi di anni fa non c'era il CERN. Come diavolo fate voi ad essere sicuri che le cose andarono così? Perché non è come avviene in molte cose della fisica teorica, no? Ci si immagina una realtà, si incomincia a descriverla e poi mano a mano si cerca di fare degli esperimenti. Qui c'è una sicurezza abbastanza forte che le cose siano andate in questo modo, oppure? Sì, diciamo, è chiaro che come scienziato devo sempre ricordare che le teorie di cui siamo orgogliosi oggi, fra 10 anni o fra 20 anni o anche prima, potrebbero risultare teorie valide ancora in un ambito più specifico a favore di una teoria più generale. Quello che c'è da dire però, che è incredibile, meraviglioso, che ricerche che avvengono in campi assolutamente distanti, sto parlando del mondo delle particelle elementari, i campi dei grandi acceleratori in cui si producono collisioni come al CERN, la materia viene portata a quelle condizioni di temperatura e di pressione che caratterizzavano l'universo primordiale e quindi possiamo riprodurre in laboratorio, rifar nascere in laboratorio alcune delle particelle estinte, per esempio il bosone di Higgs, che non si trovano più allo stato libero. Ma le nostri studi e il nostro lavoro è in coincidenza quasi incredibile con il lavoro dei super telescopi, cioè dei grandi osservatori che osservano le grandi strutture. Cioè noi osserviamo la materia primordiale riproducendo in laboratorio, loro osservano oggetti talmente distanti, distanti miliardi di anni luce, e quindi li osservano come erano in quell'istante. Quindi loro hanno la possibilità, osservando le grandi strutture dell'universo, di avere una visione indiretta dell'evoluzione dell'universo e il disegno che loro costruiscono è in totale coincidenza con la costruzione che noi facciamo a partire dai costituenti elementari, questo che chiamiamo il modello cosmologico standard. Gli approfondimenti di cui vi abbiamo parlato in questa puntata li trovate allora sul blog. Oh certo, su www.radio24.it nella sezione dei blog. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao.